I have been fed, that's a fact. I have been fed, that's a fact. My credit card purchases get me cash back. My credit card purchases get me cash back. No one else gets these rewards. Sergeant, that is just plain untrue. What in tarnation? Sir, PenFed's PowerCash Rewards Card isn't just for military members. Anyone can get cash back on all purchases. Ah, figgins! You've ruined my favorite song. PenFed Credit Union. Visit PenFed.org/PowerCash. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCUA. Osservatorio video ludico. Ah, dicevo, che cazzo è successo? No, tu quando senti queste cose, ti spieghiamo. Quando senti queste cose, non è un ictus. No, ma l'ho capito. È che sul momento ero sovrappensiero, ho detto alle porca di quella. Dentro di me ho bestemmiato. È caduto tutto, adesso vado via. Ho fatto cose del genere. Vado a giocare a Murdered. Per così. Vai. Italian Podcast Network presenta Fatality. Dietrologia videoludica. Il lato B dell'industria del videogioco. Bentornati a questa nuova puntata di Dietrologia Videoludica, è la puntata dedicata appunto, come potete vedere, ai tie-in. Con questa puntata, questo bellissimo titolo, Tie-in Out, parleremo di tie-in tratti da videogiochi, cioè film tratti da videogiochi, giochi tratti da film, che sono tratti da fumetti, che sono tratti da libri, insomma parleremo di tutto, ci faremo tante domande, ovviamente non saprete nulla da noi, perché noi non diamo risposte, mi sembra, no? Infatti noi andiamo subito a presentare l'ospite seriale, così, è bello, è anche un po' procedurale, che è Logan Singer, quello era il protagonista di Mortal, no, com'era Singer, il protagonista era di... Sindel. No, Cinder, Cinder. Infatti, se no, Sindel era una donna di Mortal Kombat. Non è Mortal Kombat, è quello di Killer Instinct. Vabbè, Killer Instinct, bravo, esatto. C'è Logan Singer da Cerebro, che è stato invitato non per niente, se non fosse che lui e la sua ciurma hanno fatto da poco una puntata dedicata a Fumpa Tain, quindi insomma, perché non prendere e carpire la conoscenza che hanno introdotto nei loro cervellini per fare quella puntata e succhiargliela e fargliela praticamente rigettare nella nostra puntata, ecco, proprio si chiama parassitaggio. E negli studi diversamente distribuiti ci sono dalle parti di Roma, da qualche parte ma non saprete mai, c'è Giuseppe Zaso con la S, comunque Roma Est, mentre da un'altra parte di Roma, ma non sappiamo perché, noi abbiamo così tanti studi che neanche ci ricordiamo, c'è il nostro buon Carlo Burigana, che finalmente è ritornato reduce da febbri, malanni, rapimenti, alieni, di tutto. C'è Carlo, sì. Eccomi. Buonasera a tutti. Ho avuto qualunque cosa. No, pensavo che ne avessi avuta un'altra, cioè questo è sparito, rapimento alieno improvviso. Buonasera, io sono vi parlo dalla succursale di Roma Sud, quindi noi, esatto. Noi nord-est. Un secondo. Mi viene pizzi fare decenni strani. Comunque, allora, per quanto riguarda questa puntata, io direi che è possibile, volendo, dare anche riferimenti. Quindi, praticamente, se volete contattarci, ci sono diversi modi. E andiamo a elencarli molto velocemente. Potete farlo scrivendo sul nostro sito, commentando gli articoli e le bagionate che scriviamo in www.dietrologiavideoludica.it. Abbiamo anche una pagina su Facebook e Google Plus. La pagina di Google Plus è ovviamente quella che usiamo di più, e di solito c'è quella, la nostra, vabbè, di consuete chiacchierate con William Shatner, ed è appunto Dietrologia Videoludica. Su Twitter abbiamo il Twitter @dietrologia videoludo, così ci dicono, ma io ho sempre il sospetto che non sia questa, ma se digitale dietrologia videoludica in qualche modo usciamo fuori. Abbiamo una mail pregna di spam, che praticamente ci viene da tutto il mondo, ed è dietrologiavideoludica@gmail.com. senti che, e questa è ovviamente una coproduzione tra Italian Podcast Network e Retrocast, che è appunto il podcast delle cose di dietro. penso sia questo, insomma, di cui si parla. Comunque, in ogni caso, non so, volete dire qualche cosa? Siete pronti? Siete agguerriti? Non me ne frega la minchia. Io ciao, voglio mamma. Dire di essere. Mi raccomando, tutti insieme, però, non separatamente. Saluto anch'io mia mamma e sono felice di partecipare a una puntata di Dietrologia finalmente con Carlo Burgana. Oh, che bello, anch'io, guarda, veramente mi hai tolto le parole di bocca. Anche Carlo, Carlo è felice di partecipare a una puntata con se stesso. Io sono felice di partecipare, esatto. A prescindere, perché ho passato veramente la qualunque in questo periodo, però insomma, volevo rassicurare i miei fan, che sai, sono molti fan io, che Passione Sound Design ritornerà appunto il mese prossimo. Pregna di batteri. Tenete duro, insomma, tenetelo duro perché vi servirà, insomma, il mese prossimo. Va bene, detto questo, siamo stati colti dalla tristezza, esatto. del male che, cioè, che è entrato nelle persone, grazie a Carlo, e ai suoi germi che ha appunto sparso ovunque. E io direi di andare con la prima rubrica, perché qui abbiamo queste rubriche modulari. La prima rubrica è un classico Biggio che ci parla di un gioco che è uscito da pochissimo, qualche giorno. E si tratta di Murdered Soul Suspect e la rubrica è primo avvio. Amici di DVL, eccomi tornato con un primo avvio di un gioco che non è recente, ma è recentemente sceso di prezzo, quindi l'ho recentemente acquistato. È un gioco della Square Enix, prodotto da loro, ma non realizzato da loro, ed è un gioco per PlayStation 4. Sto parlando di Murdered Soul Suspect, che è un gioco che può ricordare un mix tra Heavy Rain, Ghost Trick, con qualche puntina di Stealth. Il gioco l'ho pagato una quindicina di euro circa, e più o meno è il prezzo che vale. È uscito, insomma, nel primo periodo di vita della PlayStation 4 e sembrava un gioco interessante, dove devi investigare sulla un tema non già utilizzato da nessun altro gioco, devi investigare sulla tua stessa morte. Quindi tu sei un poliziotto particolare con un passato torbido, eccetera eccetera, e in seguito al controllo di una segnalazione arrivata alla società di polizia vieni buttato giù da una finestra e assassinato. Questo non è un grande spoiler perché succede più o meno all'inizio, e da lì devi investigare da fantasma sulla tua morte. Appunto, il plot non è niente di nuovo, le meccaniche del gioco idem. Alcune cose sono interessanti, nel senso che puoi prendere il possesso della gente sia per utilizzarla come mezzo di trasporto, tra virgolette, in aree non accessibili in altra maniera, oppure puoi prendere il possesso dei gatti, tendenzialmente gatti neri. Il gioco tra l'altro è ambientato a Salem, in America, quindi non un luogo a caso. Puoi influenzare i pensieri della gente e leggere nella loro mente, oppure semplicemente passare attraverso i muri, ma alcuni muri, perché altri muri che vengono benedetti non sono attraversabili dai fantasmi, oppure puoi semplicemente influenzare gli oggetti, fare in modo che certi oggetti, ad esempio le televisioni, si accendano, le aspirapolvere o aspirapolveri, come si dirà, e così via. Insomma, la trama è questa. All'interno ci sono tutta una serie di mini missioni secondarie che ti portano a conoscere quella che è la storia un po' di Salem o di altri omicidi o morti più o meno violente che sono avvenute lì, tramite sia i collezionabili sia la ricerca di indizi che si trovano in maniera più o meno casuale in giro. Ci sono delle piccole fasi stealth dove devi evitare di essere preso da questi demoni che risucchiano il tuo spirito, ma se questo succede non è un grosso problema, perché semplicemente ritorni dall'ultimo checkpoint, quindi molto difficile perdere in questo gioco. È più un gioco forse narrativo, dove uno si focalizza solo sugli aspetti investigativi e su quelli narrativi. E il problema di questo gioco, che visto così sembra anche interessante, è che è estremamente ripetitivo, nel senso che dopo qualche ora, dopo che uno ha visto già tutte le meccaniche, il gioco è praticamente finito da un punto di vista del gameplay, cioè è sempre la stessa roba. E sì, le storie cambiano, le modalità, i puzzle per risolverle cambiano, insomma bisogna un po' pensare in certi momenti, un po' stile professor Layton per certe cose, ma forse con meno attenzione alla varietà di cose che possono succedere. Quindi insomma è un gioco che, se siete appassionati di questi generi qui, consiglio assolutamente, ma lo sconsiglio se cercate qualcosa di nuovo, ecco. A quanto pare, tra l'altro, la compagnia che l'ha realizzato dopo questo gioco è finita coi piedi per aria, e un po' la cosa non mi stupisce, perché questo gioco è uscito in un periodo in cui per PlayStation 4 c'era davvero poco, quindi avrebbe potuto fare molto, ma secondo me non è riuscito a tirare fuori niente di nuovo, ma solo appunto una storia tutto sommato interessante per appassionati del genere e basta. Quindi non lo so, magari guardatevi qualche gameplay, oppure se non volete spenderci un soldo, sicuramente su YouTube trovate il walkthrough completo, se volete solo attenervi alla storia principale, e anche quello può essere interessante. Alla prossima, ciao e grazie. Ecco, avete sentito che bella fetecchia? Ma no, insomma, tutto sommato, chi è che ci ha giocato? Io ci ho giocato, per tutti, dire. Allora, io ci ho giocato, infatti, io ci ho giocato, guarda, veramente ultimamente, perché adesso che ti sentivi anche tu morto. PlayStation Store stava tipo a 11,99, quindi ho detto, vabbè, dai, giochiamo. Volevi indagare sul tuo stesso omicidio, probabilmente. Sì, vabbè, a parte che tu mi avevi spoilerato il finale, quindi insomma, non è che mi... Cioè, lui muore alla fine. Alla fine lui muore, mi dispiace dirtelo. Penso che... Esatto. No, alla fine la bambina muore, ed la bambina è vero. È vero, la bambina... Ma no, alla fine la bambina è morta. No, però dai, non è così male, però dai, alla fine, cioè, ho giocato veramente di peggio. No, è brutto, veramente, cioè, però sai, è uno di quei giochi che sono così brutti da sembrare quasi carino. È uno di quei giochi non giochi, come The Order, no? Sì. No, aspetta, vabbè, però c'è passa, insomma, voglio dire, insomma, c'è molto più gameplay in comunque l'hai detto tu, cioè Andrea Pessino, se devi pistare pista Giuseppe. E comunque effettivamente devo dire che Murder Soul Suspect ha uno stealth meglio di quello di The Order, hai ragione. Su questo ti posso dare ragione. Che però c'è molta più giocabilità, quello sicuramente. Esatto. È molti più muri invisibili oppure ectoplasmatici, che dir si voglia. Comunque, guarda, se non ci fosse il protagonista, sarebbe un bel gioco. E lì è proprio, lo rende veramente devastante. Cioè, se tu praticamente guardassi la gente che si muove, sarebbe meglio. No, ma guarda, lui è veramente una roba respingente. Io non so, magari voi siete d'accordo, non siete d'accordo, però io penso sia veramente uno dei protagonisti più improbabili mai esistiti. Anonimi. Mamma mia, proprio veramente. Vabbè, comunque. Grazie Stefano, veramente, per la tua disamina. Sì, ci hai tirato fuori di nuovo questa cosa che stavamo cercando di dimenticare. Cioè, quando ti muore un caro e tu dopo qualche giorno dici: "Oh, ma lo sai chi è morto?" Cioè tu te l'avevi dimenticato, no? Io già l'avevo dimenticato questa cosa, infatti adesso niente, si è riaperta la ferita, la purulenta ferita. Vabbè, andiamo direttamente a questo. Logan, tu l'hai giocato? Perché tu felicemente ti sei messo da parte, secondo me tu lo hai giocato ma non lo vuoi dire. No, non l'ho giocato, anzi me lo sono fatto raccontare da Pepe e da Enrico in una vecchia puntata di Cerbro e ne ho avuto abbastanza, mi è passata. No, sono sicuro che sotto appena lo danno col plus, perché mi gioco tu, le palle che questo lo daranno, te lo giocherai. Vabbè, ma perché non farlo, è gratis. Siamo Beh, dopo averlo qua, messo a 11,99, penso che, non so, potrebbero darti dei soldi loro per farti giocare. Cioè, adesso siamo lì, capito? Quindi sono ancora troppi, così, sono ancora troppi. Voi siete di Roma, ma qua si parla da Genova, quindi come ben sapete. Ecco, braccino corto. Esatto. Va bene, quindi buttiamoci. Cioè, 11,99 è il suo, secondo me. Va benissimo. Cioè, un prezzo giusto, però. Ok, il prezzo giusto. Sono 12 euro, eh? 12 euro. 12 euro. Beh, dai, 12 euro, che ci fai con 12 euro adesso? Bene. Vabbè, ci vai al cinema. Non so, ci vai. Beh, ci vediamo al film. Dai, parliamo di videogiochi trasformati in film e viceversa. Ma che... sì, dai, buttiamoci a capofitto in questa Era bellissima. Un gancio questo, ma non l'avete colto. Ci vai al cinema. Ci vai al cinema, infatti. Quindi buttiamoci a capofitto al cinema e andiamo a rivederci. No, scusate. E buttiamoci appunto a capofitto in questa nuova avventura e entriamo nel. masturbatorio dietro ludico. Esatto, qui in questa puntata parleremo di tie-in. Parleremo di tutto, quindi di tie-in film che vengono tratti da videogiochi e viceversa, ma anche da fumetti, da libri e via discorrendo, incroci, spin-off, un casino, insomma. E Logan, che è appunto reduce da una puntata da Cerebro, dove hanno discusso nel particolare dei film tratti dai videogiochi. Sì, esatto, sì. Hanno fatto una disamina, avete fatto una disamina molto accurata, tirando giù numeri, registi, attori, curiosità, maledizioni, insomma un po' di tutto. E quindi giustamente, visto che sei ancora a mente fresca, no? Come quando hai fatto appena l'interrogazione e poi ti dicono il giorno dopo, visto che l'hai studiato, vieni qui a ripetere le stesse cose. Vabbè, e qua parte il file della puntata di Cerbo. Esatto, c'è il link e via. No, intanto voglio precisare una cosa, che quell'episodio è stato curato e scritto da Ivan, quindi gli devo dare il merito di aver dato vita a quella puntata. E beh sì, abbiamo fatto un po'... intanto un riassunto, una carrellata dei vari titoli dei vari film, a partire proprio dal primo tratto da un videogioco, che poi diremo qual è, magari ne parliamo più avanti. Però prima ci siamo fatti un po' di domande e ci siamo chiesti qual è la differenza tra vivere un videogioco interattivo e vederlo su uno schermo. Ci siete? Sì, sì, sì. Me lo auguro. No, perché adesso mi è venuto il panico, dovete capire. Scusate. No, fai ogni volta che hai dubbi fai check e noi rispondiamo, quindi... Ok, check. Check, ok. Beh, questa è una domanda che possiamo rivolgerci anche noi, volendo. Risponderemo... Giuseppe, secondo te? Che differenza c'è? A parte il fatto che ci sono molti videogiochi che in realtà potrebbero essere delle semplici esperienze da guardare, quindi suppongo l'interattività, no? Possiamo fare anche un esempio tipo di... No, infatti. Avevo colto la frecciatina. A parte gli scherzi, direi che il problema di tutto è che a volte molte storie, e non intendo comunque con questo termine in realtà solo l'intreccio degli eventi, ma anche un po' il background, la caratterizzazione dei personaggi, le scene, il taglio con cui vengono girate, eccetera. In realtà molte comunque si vede che sono fatte per un prodotto videoludico, no? Perché in molti film non ti sogneresti mai di fare, diciamo, in un'ora di pellicola certi passaggi che tu non vai a fare invece in un'ora di gameplay, di gioco, no? Sì, ovviamente poi non ti sogneresti neanche di mettere determinate cose, che sì, esatto. E viceversa, ovviamente. Cioè, immaginatevi un film dove praticamente ogni 2x3 si vede il protagonista che si mette a scassinare tipo la serratura di una porta. No, questa o raccogliere erbe. Che esatto, ne so. Al limite lo vedi una volta in tutto il film, in tutte le l'ora e mezza, due ore, tre ore, quello che vuoi di film e basta. No, non è che... laddove invece per esempio molte scene d'azione, molte battaglie per esempio le puoi anche vedere, cioè, poi ci può essere un intero film di cui per esempio uno degli spin-off che sappiamo più è tipo la saga del Signore degli Anelli o dell'Hobbit, dove comunque le battaglie ci possono comunque stare e non sono mai completamente fuori contesto o danno noia, insomma, perché comunque c'è quell'azione che si può anche volendo trasporre in un videogioco, ma a volte il contrario non è mai perfettamente chiaro, comunque consono al medium cinematografico. Carlo, secondo te? No, Logan ti ho interrotto, scusami. No, tanto volevo fare una domanda anch'io a tutte e tre più che altro. Secondo voi è più facile portare su schermo un videogioco narrativo oppure uno che invece non lo è, come può essere un Super Mario, che alla fine di trama ha poco? Lasciando cioè, perdere. Hai beccato Super Mario, infatti, hai beccato un pessimo esempio. Però. Mettiamone un altro. Non lo so, Pac-Man. Vabbè, Pac-Man. Ecco, bravissimi, Pac-Man. Beh, allora io rispondo velocemente. Secondo me c'è una difficoltà in entrambi i casi. Adesso stavano facendo, mi sembra, di notizia, non so se è un fake clamoroso che devono fare, ma mi sembra di no, il film di Space Invaders. Sì, anche su Tetris. Ecco. Sì, sì, l'hanno confermato, è vero. Quindi sono, tra l'altro non c'entra niente con il video ludico, forse di Striscio, il film Battleship di qualche anno fa, sulla battaglia navale. Sì, ma cioè, c'entra nel senso che poi da là hanno fatto il tie-in videogioco, esatto, al lancio del film. Nel diretto, diciamo, la difficoltà di fare un film che viene tratto da una storia molto narrativa, che potrebbe essere, io so, un The Last of Us, che è molto narrativa. La difficoltà è di riuscire a ricreare le stesse lo stesso appeal, lo stesso coinvolgimento emotivo che c'è nel gioco in una pellicola, che magari non è facile riuscire a ricreare. E questo proprio per essere proprio stretti, insomma. Anche perché a volte non è detto che una trama che funziona in un gioco riportata in un film funzioni allo stesso modo. Perché magari a noi piace, certo, The Last of Us, ma se ci andiamo a fare un film, magari è un film di serie B. Verrebbe fuori, sì. Lasciando stare le varie, la storia dei singoli personaggi. Dall'altra parte c'è la facilità, tra virgolette, che tu già hai una buona base su cui partire, quindi da quella che è la storia originale puoi partire per diversificare, adattare al media, al medium cinema il gioco, tra virgolette, e farlo diventare un film, anche perché poi il gioco dura 5 ore, 6 ore, parliamo sempre di nella media, sì. Esatto. Marco, ma questo fino a un certo punto, perché come ben sai, sì, ma infatti come ci hanno insegnato tutta la serie di titoli che andremo poi a nominare più avanti, in realtà molte volte prendono solamente il marchio, esatto, perché fa cassa di risonanza e se ne fregano di tutto quello che c'è. Ma ci arrivo, perché praticamente anche vai a condensare 6-7 ore in un'ora e mezza, massimo 2 ore, quindi dal punto di vista puoi riuscire a tirare fuori quello che è il meglio del gioco, e quindi il meglio di quello che è il coinvolgimento emotivo, e mettercelo e riuscire a filarlo in quelle 2 ore. Però puoi anche toppare clamorosamente, perché magari la trama non, in realtà trasposta nel film, nella cinematografia, non regge. Dall'altra parte invece, quindi avere un gioco tipo Pac-Man, Tetris, e buttarci diciamo questa, la trama, chiamiamola così, in un film, hai la possibilità di poterti sbizzarrire, quindi di prendere il titolo, l'idea, e farci inventare completamente, quindi puoi anche riuscire botta di culo a farci una bella cosa che avessi potuto anche non chiamare in quel modo. Sì, ma infatti il mio dubbio è, allora a questo punto, perché devi acquisire quel marchio? Perché punti sulla fanbase, no? Quindi comunque punti. Bisogna comunque mettere un punto su tutto, esatto, su tutto sto discorso, che è quello che qualsiasi cioè tutto quello di cui stiamo parlando comunque alla fine si fa per soldi. Sì, sì. No! Quindi no. Ebbene sì, ragazzi, volevo tenermelo per la fine dell'episodio, ma hai spoilerato la fine. Lo so. Esatto. Quindi cioè, il motivo dell'acquisto dei diritti è quello, cioè, si cerca comunque di poi, infatti, si cerca di comunque utilizzare al massimo quelle che sono i trascorsi, diciamo, del titolo, del brand, insomma, quindi utilizzare la fanbase, la curiosità anche di gente che non ha mai giocato a gioco, dice, ma fammi un po' vedere come il film, di che cosa parla, anche se poi alla fine magari non c'entra un tubo. In realtà ci sono facilità e difficoltà in entrambi i casi. Forse per assurdo è più facile fare un film da Tetris che da The Last of Us, anche perché chi va a vedere un film di The Last of Us si aspetta di uscire al film come è uscito dal gioco. Bravo, e qua poi c'è un altro discorso da fare. Chi invece esce da fuori da Tetris, cioè che ti aspetti? Al massimo poi richiede 500 lire, cioè, ah, questo gioco non mi piace, cioè, si aspetta la musichetta, esatto, cioè, non è che si aspetta ma più di tanto. Non ci sono i tetramini che cadono dall'alto? I tetramini no, non ci sono, purtroppo no, a meno che non lo fai fuori quando ti, con la macchina, ma non è consigliabile. Quindi forse fondamentalmente la difficoltà principale è quella di poi far contenti chi va a vedere il film, ed è più facile far contento chi va a vedere un film che non ha che viene tratto da un gioco che non ha trama, ovvero che non è narrativo, piuttosto che uno che lo ha, che più che altro si corre più rischio di deludere il videogiocatore, il guardatore, diciamo così, perché sì. In realtà lui guarda sia il videogioco che quindi lo spettatore, ecco così, si corre più rischio di deludere con il narrativo che con l'altro. Io la estendo un po' di più, secondo me è più facile deludere il videogiocatore con un tie-in tratto da un videogioco. Sì, ma sì, certo, è più facile, ma questo in generale. Beh, sì. Però sì, vabbè, se tu vai a vedere il film di Tetris, ma che ti aspetti? Cioè, cioè, rimanere deluso proprio dal film in sé, non da come è stato utilizzato il brand di Tetris, più che altro. No, no, quello sì, però ad esempio un film di The Last of Us dipende come me lo tiri fuori, perché poi c'è anche il dilemma, come lo adattiamo? Esatto. Lo adattiamo paro paro, lo adattiamo modificando? Guarda, la definizione... Riesci poi a far affezionare... i personaggi in un'ora e mezza rispetto alle 6-7 ore del gioco, perché poi lì quando ci passi magari non 7 ore di seguito, ma 30 minuti un giorno, 40 un altro, un'ora un altro giorno, cioè magari ci passi un mese perché non ci giochi tutti i giorni, c'hai anche un'affezione diversa verso i personaggi e la storia. Certo. Quando vai lì, ti vedi un film in 1:20 e ti sparano tutto subito, potresti dire mazza che minchiata, cioè magari ti rendi conto che è proprio una minchiata, anche magari la storia originale ti rovina pure il gioco. Vabbè, ci sono anche certe sezioni, ritorniamo al discorso delle meccaniche che non potevi, sì, che non ci possono essere. Per esempio per Last of Us non è che, cioè, può anche andare bene che ogni tanto ti facevano intravedere la sezione stealth dove cerchi di aggirare i clicker, no? Sì, un film ce lo permette una volta, due, esatto, certo. Ma per esempio in Resident Evil, nella serie Resident Evil non è che potevi fare dei film con mani che escono dai muri, tu che vai avanti la chiave dell'altra, con gli enigmi, con quello che spinge le casse, che per assurdo film tratto da Evil Within sarebbe fatto come Evil Within, sarebbe più logico, sì, rispetto a Resident Evil, per dire, perché lì ci si adatterebbe di più, magari verrebbe fuori una cagata in mano uguale, però. E poi in realtà dovremmo, se ci pensi, sì, i videogame comunque hanno una scrittura proprio peculiare, non hanno una scrittura cinematografica, sì, cioè le trame così diluite su un videogame non funzionerebbero al cinema, ma è normale, insomma, è ovvio che la trama deve essere riadattata e deve essere condensata in quello che è la durata di un film, e quindi va comunque ristrutturato comunque tutto dall'inizio, per quanto possa prendere spunto dal gioco, ovviamente. Mi è venuto in mente una cosa. Ma partiamo dal presupposto che comunque i film tratti dai videogiochi non vengono fatti per i videogiocatori, cioè questa è una cosa da innanzitutto proprio da prendere per partito preso. I film non vengono fatti per i videogiocatori, i film vengono fatti anche per i videogiocatori, ma tanto lo sanno perfettamente le major cinematografiche, se fanno il film di The Last of Us è ovvio che chi ha giocato The Last of Us, chi ha adorato The Last of Us trova a vedere il film, ma loro sono interessati a quelli che The Last of Us non sanno manco che è, sono quelli che vogliono portare al cinema loro, perché tanto i videogiocatori lo sanno che ci vengono, e quindi loro vogliono portare al cinema, punto. Punto, sì. Chiunque sia, cercano di estendere la cosa a più persone contemporaneamente, per questo non ti faranno mai il fanservice, sì, l'occhiolino te lo fanno, ma di certo non ti rifanno il gioco per te che hai, che né il fumetto né quello che sia, insomma, qualunque cosa sia, insomma, non lo rivedrai mai pari passo come te lo ricordavi tu. Ci sarà sempre qualcosa che non... In realtà, la definizione giusta l'ha data Luigi Marrone, ha detto che il film, il tie-in, deve essere una celebrazione del videogioco, sì, non esattamente. Quindi c'è cercare di azzeccare lo spirito di quello che era il videogioco, con i dovuti adattamenti che quelli per forza ci devono essere, come Silent Hill, che per esempio è venuto come comunque... Silent Hill, bravo, lo so, certo, quello, sì, come esempio non è un gran film, tutto sommato. Però se tu, però soprattutto funziona, che ci hai giocato, quello non ti lascia spaesato, cioè tu ti aspetti quello e quello hai. Sì. No, ha quel feeling, anche perché, diciamo, pure premettendo che io proprio questo film, secondo me, è uno dei migliori come trasposizione di cinematografica di un videogioco. Però, per esempio, se noti anche molte riprese, se ti ricordi, molte situazioni in cui, molte scene che sono, diciamo, molto allungate proprio per sembrare delle situazioni del videogioco, tratte dal videogioco, sì, se sì, noti. Sì. Mm. Ah, vero, è vero. No, mi era venuto a mettere una cosa, però prima che me la dimentico. Esistono serie invece televisive tratte da videogiochi? Serie televisive tratte da videogiochi? Non lo so. Oddio, sicuramente sì. Bella domanda. Vabbè, io direi... Sì. Se non vi vengono una domanda da un milione di coin. Beh, di c'è gold. Halo Nightfall adesso. Che non conosco, però. C'è stato Mortal Kombat, Mortal Kombat Legacy, cos'era? Sì, giusto, no? giusto. È vero. Bella cagata. Cagata. Ok, quindi non è mia, non è meglio, insomma, la situazione. Anche se poi alla fine Mortal Kombat rientra uno di quei di quelle serie video che, cioè, tutta sta gran narrativa non ce l'ha alla fine. Per cui, insomma. Però sono riusciti a tirare fuori un primo film che se l'è cavata benino, voglio dire, il primo film di Mortal Kombat. Aspetta, lo premetto che dopo aver ascoltato la puntata di Cebro me lo sono andato a rivedere. Oddio, la storia non è tutta sta molto, ma molto stupida, anche come, cioè, si vede che è un film figlio degli anni 80, anche perché non c'è sangue, non c'è, cioè, proprio molto politica lì, scambio di battute pure abbastanza pacchiano come scrittura. Però io l'unica cosa che riconosco a questo film è la mitica soundtrack. disco dance Mortal Kombat, pam pam pam. Ma poi Christopher Lambert è Christopher Lambert, però appunto, ma allora andava. Cioè, volendo, diciamo, vedendo alla lontana, ci poteva anche stare, per quanto proprio Raiden non può essere interpretato da un attore americano con una parrucca, a parte che non faceva quasi niente, se vi ricordate, nel film, cioè, non ha tirato neanche un pugno, voglio dire, solo quattro fulmini ogni tanto. Pensa, lo dico per Carlo, questo, quando ero pischello era uscito un gioco per PS1, poi anche per la 2, Music si chiamava. Io avevo rifatto tutta la colonna sonora di Mortal Kombat con quel giochino lì, da quanto mi aveva impallato, per dire. Ma io andavo a ballare in discoteca quella roba, ragazzi, cioè, erano il 94, cioè veramente una roba proprio terribile. Ovviamente la discoteca di pomeriggio, ci tengo a precisare, quindi proprio più triste di così si muore proprio. Però meglio tutta la vita Mortal Kombat che il film di Street Fighter. Oddio, sì, che merda, ragazzi, che il film di Street Fighter, perché ci metto anche il secondo, sì, che poi, diciamo, è stato merda, che a sua volta ha generato altra merda, perché ha generato il videogioco tratto dal film, è vero, che riprendeva lo stile grafico di Mortal Kombat, esatto, quindi, cioè, assurdo, terribile. Sì, che poi era proprio, tra l'altro, una costola di Mortal Kombat a livello di sviluppo, no? Aveva comunque i giocatori digitalizzati, no? I personaggi, no? Quelle cose assurde, bruttissimo. Lo vidi in sala giochi e ci giocai pure, pensate, ci buttai pure i soldi. Non ci ho mai giocato, ma lei com'era? Cioè, era come gli altri? Si giocava come gli altri? O... Allora, cioè, la gran parte delle mosse venivano riproposte esattamente pari, quindi lo Spinning Beard Kick di Chun-Li, la Token di Ken, di Ryu, insomma, l'elettricità di Blanca, però comunque fatte con le movenze di quegli attori digitalizzati, e comunque anche un motore tecnico che non era per niente fluido, insomma, era abbastanza ingiocabile. Ah, ok. Bello. No, ma voi lo ricordate sul film che a un certo punto Ken dice Ryu? Cioè, lo chiama Ryu per tutto il film, a un certo punto diventa Ryu, non si è capito la ragione. Madonna mia, comunque, che ricordi brutti assai, però. personaggio adesso bisogna di pensare a qualcosa di bello, fammi pensare a qualcosa di bello, perché sennò è... io pensavo che dovessimo cominciare adesso a fare la carrellata, adesso la facciamo io. Sì. Però vorrei fare un punto. Mm-hmm. Perché qui poi adesso stiamo parlando di tie-in di film tratti dai videogiochi. Sì. In realtà ci sono anche videogiochi tratti, come abbiamo già accennato, tratti dai film, che mm-hmm. sono nella maggior parte dei casi le storie di film riportate in videogioco, cioè parte, pezzi di eventi, diciamo clou del videogioco, del film rimesso nel videogioco nel quale viene appunto buttato poi il giocatore, tipo quello di bellissimo, stupendo di Iron Man, non so se conoscete. Una monnezza clamorosa. Oppure quelli di Batman, non quelli Arkham, ovviamente. Proprio quelli tratti dai film, quelli prima, sì, esatto, sì. Ma anche quelli tratti dal Signore degli Anelli. Che... Beh, quelli su PS2 non erano malvagi. Non erano male, non erano male. Però alla fine, diciamo che non erano. Erano sì, le statistiche bellamente, bellamente dimenticabili. Insomma, quindi pensa alle due torri, l'ho doppiato io, cioè io l'ho doppiato io. Insomma, ho assistito alle lavorazioni di doppiaggio con tutti gli attori del film. Carino quello. Sì, lì c'aveva, mi sembra che era quello, le due torri, o non so quale. No, veramente c'era transizione. Un altro che non era malvagio ed era la signor Yelly, la terza era, che era praticamente una specie di storia, era un gioco di ruolo. È uno spin-off. Con eventi, diciamo, che accadevano in contemporanea agli però eventi. Però era più una cosa, diciamo, indipendente, tra virgolette, rispetto. No, perché c'era all'interno tutte le scene anche del film. Io mi ricordo, non mi ricordo quale, cioè che aveva una bellissima... c'ho un ictus in questo momento. Comunque c'era una transizione stupenda dal film al videogioco. C'era tutta questa scena del film del combattimento, che poi piano piano si trasformava i tutori, perfetto. Poi si trasformava nel videogioco. Sì. Cioè, passava da grafica vera a grafica videogioco. Ed era stupenda. Quella me la ricordo. Adesso nada. Scusa, ha mai giocato all'Hobbit per PS2? No. No, questo no, sono rifiutato. Era uscito questo gioco, non chiedetemi neanche, non mi ricordo chi l'aveva fatto. Era praticamente una sottospecie di platform. Uh-huh. Voi immaginatevi Croc con la grafica un po' migliorata, i controlli peggiorati e tutto quello che ne viene dietro. Comunque, è una cosa oscena. Volevo chiedere, evidentemente sono l'unico al mondo che l'ha giocato. E quello di cui poi è stato tratto due film su tre di. Sì, di cosa gli ultimi praticamente di oh, mi ricordo stasera c'ho l'ictus, mi viene proprio niente di Peter Jackson. Jackson, esatto. Bellissimo, sì, stupendo. Facciamone qualche esempio a questo punto, cioè, proprio quelli che ci hanno colpito di più nel segno, che ci hanno lasciato proprio le cicatrici dentro, dai, tiriamo fuori. Facciamo outing. Allora, devo dire quanto sono vecchio. Cioè, allora parliamo di tutti i tie-in della serie di Ritorno al Futuro. Non so se li avete mai giocati su Commodore 64 o su Amiga, che erano dei giochi osceni che andavano a riprendere scene del situazioni del film. Sì. Adattate, non so se vi ricordi il Ritorno al Futuro 3, c'era tipo il quando è che Doc doveva a cavallo andare a salvare Clara prima che si buttasse dal dirubo, poi c'era tipo la sezione in cui dovevi sparare con Marty stile, che poi lì in quegli anni secondo me i tie-in funzionavano meglio di oggi, perché lì erano pezzi, cioè erano come i livelli dei giochi classici, quindi c'era il livello 1 e il livello 2 che potevano praticamente essere scollegati. Ed è la stessa però tecnica che utilizzano per fare i tie-in oggi, quindi prendono dei pezzi, li buttano lì come dei livelli separati di un videogioco, e oggi però fanno cagare perché non siamo più abituati a certe cose. Anche allora ricordiamo che c'erano certi esempi brutti, primo tra tutti un famosissimo E.T. Allora io sappi il gioco di E.T. Tu hai detto che hai giocato quello lì, io ho giocato E.T. quindi e ho ancora E.T. quindi attenzione, non l'ho tirato fuori dalla sabbia, tienitelo da conto, il Grand Canyon sì, no, ma è una rivisitazione, comunque non è quello originale, perché ci fecero anche un reboot probabilmente. Io ce l'ho per 800XE e 800XL ed era HD diverso. Edition probabilmente, sì, HD era una bestemmia, non so, in quel senso, in quegli anni sicuramente, quindi in quel senso lo prendevi e bestemmiavi, è una cosa bellissima. Quindi vabbè, quello è... però tutto sommato, guarda, a me mi piacque. quel gioco riuscì a piacermi. Vabbè, ti divertivi con poco, ma Marco. Sì, era divertente. Alla fine avete visto tizio che gli si allungava, si stringeva il collo, il bambino che raccoglieva ombrelli, che poi sai che se stava a Roma no, per esempio, allora ti porto un esempio di videogioco tratto da film recente, cioè recente, comunque l'ultimo videogioco di questa serie di film, che è stato secondo me meglio di tutti i videogiochi usciti prima dedicati a questa serie di film. Ossia, mi sto per esempio riferendo a Ghostbusters. Ah sì, ottimo. Perché secondo me l'ultimo Ghostbusters. Però quello è un tie-in, attenzione, sì. Quello è un tie-in che è vero, è tratto, però in realtà prende il brand, non prende il film, cioè nel senso prende quello che è il passato del film e lo porta avanti. In realtà no, perché si vocifera che parte della sceneggiatura di quel videogioco era quello che doveva essere Ghostbuster 3. Io ci metto pure quello che hanno citato in Cerebro, Warriors, i guerrieri della strada. Sì. Quello di Rockstar. Il prequel, diciamo, sì, della Rockstar, sì. Che era pure quello, era fighissimo, insomma. Cioè, non era proprio il più grande videogioco che era fatto la Rockstar, però sicuramente un bel gioco, era giocabile, era divertente, era lineare, per cui non c'erano salti strani, perché praticamente racconta il prequel del film, poi arriva al film e finisce più o meno con il film. Quindi, aspetta, volevo a questo punto dire una cosa che mi ha fatto ricordare così al momento Logan, che diceva, per quanto riguarda l'Hobbit, che dice ci hanno fatto un platform, ma vedi che non è l'unico, diciamo, film dove l'adattamento è diventato un platform stravolto, perché tipo, non so se avete mai giocato i videogiochi tratti dai film della famiglia Addams, che erano tutti dei oppure anche The Blues Brothers, non so. Vabbè, se ma una volta ricordo. Tutti i platform, i tie-in. Sì, esatto. C'è il silenzio. Tipo Enter the Matrix, come l'avete preso voi? Ah, una cosa bella o una cosa brutta? L'ho preso nel sedere. Allora, non spendere i soldi. Allora, aspetta, Enter the Matrix c'era quello che li confondo. Quelli che Enter the Matrix era quella con i due personaggi. È bravo, sì. Con i due personaggi, la nera e il bianco lì con l'occhiale. Ok, sì. Perfetto. Sì. Quello lì tutto sommato era giocabile, ma cioè alla fine dimenticabile. Era bella l'idea dell'universo esteso, sì, insieme al videogioco, i film, Animatrix, che era la serie animata, diciamo. Esatto, sì. Sì. Però era in realtà l'idea, ecco, il gioco in sé, a parte sì. Quello sì. Poi c'era Path of Neo, che era veramente agghiacciante proprio. Però lo sapevate voi questa cosa? Per esempio mi ha ricordato questa Enter the Matrix, che avevano fatto questo gancio particolare con il film, col secondo film di Matrix, per cui c'erano dei codici che potevano essere inseriti in una specie di terminale che c'era all'interno del gioco, che era il terminale praticamente dell'operatore, insomma, che era il famoso, quello che stava fuori dalla simulazione, no? Che faceva accadere un po' le cose buone, insomma, chi invece stava nella simulazione gli trovava le vie d'uscita e così via. E c'erano questi codici che tu potevi inserire prendendoli da, che ne so, le targhe delle macchine del film, perché a un certo punto apparivano dei numeri sul film, che appunto soprattutto nella scena quella dell'inseguimento sull'autostrada, e lì praticamente le targhe erano i codici da inserire all'interno del gioco. Questa è una cosa che mi ha fatto esplodere la testa, è stata una roba molto particolare, cioè un'interazione fra film e gioco che credo nessun altro abbia mai replicato. E ci sarà anche un motivo, però, esatto, oltretutto. Beh, però, però è coerente, sì, con, sì, l'idea di Matrix proprio. Sì, sì, era proprio mazza, devo dire, sicuramente coraggiosa come idea. Bello. Vabbè. Stupendo. Io un gioco recente, ormai del 2009, che ho giocato, che è un tie-in di un film che però è già un tie-in di un fumetto, è Wolverine Origini. Sì, figo. Che mi ha stupito, soprattutto sì, perché sì, ne sì. Venivamo da X-Men, il tie-in di X-Men 3 e X2. Scusa, qual era Wolverine Origins? Wolverine Origins era... Il videogioco, mi sa che me lo son perso, sai. Sì, è il videogioco tratto dal primo film di Wolverine, praticamente carino. Dove raccontano tutta la storia di quando gli infilano l'adamantio, sì. Arma X. E il gioco era bello perché era un gioco d'azione dove, però, cacchio, finalmente interpretavi Wolverine con il contro Beep. Sì, perché l'altro vecchio Wolverine non era un granché, quello che praticamente per rigenerarsi doveva tirare dentro gli artigli, se no non si rigenerava. Sì, quello lì era quello, il tie-in di X-Men 2. Poi avevano fatto quello tratto dal terzo film dove potevi utilizzare anche Nightcrawler e l'uomo ghiaccio, però era non era niente di che, era giusto una scusa per fare da tappabuchi tra il secondo e il terzo film, per spiegare perché alcuni personaggi non c'erano nella terza pellicola. Invece Wolverine Origin era bello, era fighissimo anche il sistema, il motore grafico, praticamente se tu subivi troppi danni ti ritrovavi praticamente a morire su uno scheletro, piano piano si rigenerava in tempo reale. E poi no, in generale sì no, quello è un bel gioco. Fortunatamente è riuscito a tenere alta la bandiera di Wolverine. Poi per l'unico che invece mi ha, che poi la gente schifa, è quello tratto da Spider-Man, quello tratto dal 3, quello con Venom. Quello lo schifano tutti. Ma quello lo schifano tutti. Scusa, lo sto giusto schifando. Ma perché? Vabbè, dai, non è brutto. Non che i due. Perché segue, no, perché segue comunque il film. Sì. Però tutto sommato in realtà c'è proprio tutta una serie di side quest extra, ok, no. Però aspetta, perché se ne veniva da Spider-Man 2, che era invece un gioco fantastico, che appunto, cioè proprio in quel gioco lì tu eri l'uomo ragno, ti dava, sì, ottimo, aveva, infatti, sì. Aveva il sistema di svolazzamento con la ragnatela, non so, swinging, swinging, web swinging, web swinging, che okay, vabbè, siamo italiani, diciamo svolazzamento, sì. E dondolavi, utilizzavi i due trigger del DualShock per la mano destra e per facevi sinistra. Qualsiasi cosa proprio, sì, facevi quello che volevi, ma non come l'ultimo gioco uscito, quello di Amazing Spider-Man 2, che cerca più o meno di replicare il sistema. Lì proprio addirittura se tu tenevi premuto il tasto rimanevi appeso alla ragnatela. Sì, sì. Cioè, sono diverse cose, sì, sì, sì. Potevi controllare con tutte e due le ragnatele contemporaneamente. Sì, sì, sì, sì. Era tutto. Invece, poi il gioco. Restando in Spider-Man, il primo uscito per PS2, che era fighissimo. Fantastico. Ve lo ricordate? Fantastico, perché avevi proprio l'impatto. Esatto. C'era proprio free roaming, New York free roaming. Stupendo. No, il primo no, No. Sì, primo sì. Aspetta. Allora, aspetta, no. Non so se Spider-Man 1, guarda, ne vengo da uno speciale su PSM proprio sui tie-in tratti dai fumetti. Quindi c'era uno che era completamente recente. Che era free roaming comunque. Allora, i free roaming sono su PS2 il secondo e il terzo. Ah, forse e poi ovviamente le conversioni dei due. Forse il secondo che aveva sulla 3. Invece la versione PC che era una cacata in mano. Cioè del tipo che la ragnatela devi sperare in appositi gancetti appesi nella, cioè delle formine, delle icone, c'è una cosa assurda, cioè, era tipo coi binari dover andare per la ragnatela, una cosa bruttissima. Ah, forse allora tu ti riferisci a quelli usciti nuovi, usciti dopo Next Dimension e no era proprio Spider-Man, era la versione PS2 era fighissima, la versione PC una cacata in mano. Ah, ed sì, era quello? Sì cacchio. Io so che allora il primo tie-in, quello dal primo film, non era free roaming, aveva i livelli proprio divisi tra quelli all'aperto e quelli interni. Io mi ricordo quello che praticamente tu non potevi scendere sotto i palazzi perché c'era il primo, bravo. Sì, ma io PS2, non PS3, cioè non PS1. PS2, PS2. Era quello dopo. Quello è PS2. Era quello dopo è quello dove ti dondolavi come volevi. Esatto, per PS2 però. Per PS2 c'è PC un casino, è una cacata pazzesca. Ok, va bene. Ma veramente non c'era questo, cioè c'erano i gancetti, cioè delle icone, e tu dovevi spirare sull'icone e lui poteva muoversi solo con quel binario, non poteva fare nient'altro. Poi per il PC è una cosa orribile. Vabbè, ma usciamo fuori dalle ragnatele, dai. Sì, no, dai. Se no, poi ci vengono a tormentare nei sogni i ragni. Allora, io direi che a questo punto, dopo aver sparato tanta cacca sui tie-in, citiamo velocemente il re dei tie-in cinematografici, che è quel gran nazistone di Uwe Boll, che è stupendo. Chi di voi ha visto più di un film di Uwe Boll? No, perché chiedo più di un film, perché ovviamente il primo può essere un errore, il secondo è comunque è peccato essere demoniaci, probabilmente, come diabolici. Devo andare a confessarmi, allora. Mi sono fermato a Alone in the Dark, non ci ho avuto più coraggio proprio di... pensato no, cioè, no, non si può, semplicemente. Poi tra l'altro c'era Christian Slater, vorrei sì. Sottolineare, quindi manco l'ultimo degli stronzi, insomma. È vero che mo Christian Slater sta un po' alla canna del gas, indubbiamente, dopo però quel film. Quindi Che Slater è ancora vivo. io posso ritenermi fortunato, perché vi dico che non ho mai visto nessuno dei suoi film. Male, Beppe, male, perché adesso noi andremo a racciumare tutti i film di Uwe Boll e li vedremo tutti insieme. Una maratona Uwe Boll, cominciando da Postal e arrivando fino a, passando ovviamente per House of the Dead, arrivando fino all'ultimo, che non so quale sia, perché Far Cry, Alone in the Dark, no. Vabbè, Far Cry è più recente di Far Cry 2008. Mi sa Far Cry, sì. È un grido lontano di bestemmie, ovviamente. Far Cry, che mi sono limitato al trailer, non ho voluto approfondire. Beh, comunque, insomma, diciamo che bella monnezza. E, però la cosa che si può dire del tie-in rovesciato, magari, cioè non rovesciato, scusate, il tie-in non diretto, cioè che non deriva direttamente da, per quanto riguarda i videogiochi, che non deriva direttamente da un film. Non so se ti viene in mente qualche esempio. Posso, positivo. Sì. Immaginami sì. Con la mano alzata, no? In piedi, sì. Proprio. Mm-hmm. Blade Runner, signore e signori. Vabbè, sì. Bravo. PC 1900, sì. Credo 95 o 96, se non sbaglio, 97. L'avventura grafica. No? L'avventura grafica. Guarda, io penso che veramente pochi giochi sì. Mi hanno lasciato così sorpreso da quanto era ben fatto. Poi, oltretutto, mi infilo sempre quella, la deformazione professionale. Mi infilo sempre l'informazione sul doppiaggio. C'era il doppiatore di Harrison Ford, quello del film, che è Roberto Cammino, che ha partecipato, l'unico tra l'altro dei doppiatori, insomma, dei vari personaggi, facendo sfigurare gli altri, allora, quindi. Facendo sfigurare ovviamente gli altri. Però devo dire che quello era veramente un grande gioco, ma c'aveva un'atmosfera pazzesca, comunque. Poi aveva un'atmosfera così aderente al film che era veramente impressionante. Non so se voi ci avete giocato, ma ho giocato fino a una certa, sì, però era fighissimo, che poi devi anche ragazzi. Decidere il tono con cui parlare alle persone. Sì. Non no, quindi insomma non è tutto Capito. Merda poi alla fine, dai. No, vabbè, allora se però non sono dire. Allora però no, quelli lì non sono, a parte quello è un caso un po' particolare, poi magari era più ripreso forse dal racconto mischiato col film, era tutto un po' particolare, però ci sono tie-in tratti non solo da videogiochi, scusate, da film, ma anche da serie TV o anche da fumetti o da racconti, che tutto sommato riescono bene spesso, almeno per quanto ho notato, se non sono delle trasposizioni di quel film, di quel racconto, di quel fumetto, ma sono reinterpretazioni o comunque nuove avventure tratte da quella, in quell'universo. Sì. Vabbè, traggono solo personaggi e ambientazioni, ma non si riferiscono a una storia in particolare. Non riportano, la storia, ma magari la ampliano con nuove, con nuove avventure, o perlomeno prendono quell'ambiente e quella. Sì. Come può essere zone. L'ultimo L'ombra di Mordor. Esatto, sì. Quello è un ottimo esempio. Quello si sono inventati tutto alla fine, magari hanno preso ispirazione da qualche scritto, però alla fine hanno creato un'avventura completamente nuova, e che gli si può dire, insomma. Comunque, vabbè, allora scusa se posso intromettermi, anche se in realtà questo è già più un cartone animato, ma comunque credo che ci siamo più o meno là, il videogioco tratto dalla serie South Park. Anche. Se permetti, quello è un ottimo esempio, che proprio è come se fosse una puntata speciale, proprio un film, come il film che uscì ai tempi, sparato, diciamo, in versione giocabile, che tra parentesi, perché ha avuto anche tanto successo, perché comunque attivamente alla parte della storia eccetera hanno lavorato gli sceneggiatori e non, diciamo, altra gente che è al di fuori dell'opera originale, no? Certo, sì. Poi vabbè, certo. Di buoni esempi io parlerei adesso di andare a parlare delle cose virtuose, perché tutto sommato il tie-in non è solo merda. Sì. Le cose virtuose, tiriamo fuori, che ne so, The Walking Dead. Sì, vabbè, allora già prima, visto che aveva detto anche Carlo Blade Runner, io comunque dico che per esempio tutte le altre avventure della Lucas di Indiana Jones slegate all'ultima crociata, quindi che sono anche Fate of Atlantis, comunque è un gran gioco e più volte si era, se ricordo, mi ricordo parlato pure di trasporlo in film, anche se non riuscì mai, per esempio. E magari chissà che cosa ne sarebbe uscito fuori, perché poi queste cose slegate permettono ai programmatori e agli sceneggiatori comunque di quel gioco di sbizzarrirsi e di fare cose adatte al gioco, cioè di fare un gioco e non di fare un gioco cioè pezzi di gioco tratti da un film che vengono poi, una minchiata. Poi a quanto sembra, perché dico sembra perché io non l'ho giocato, se qualcuno di voi l'ha giocato magari si può anche inserire, Alien Isolation, l'ultimo Alien, quello io lo devo finire, quello mi sono fermato buono, ma lo devo finire, giuro che quello buono comunque insomma riesce a rendere comunque giustizia alla serie di film, no? Sì, esatto. Poi ci sono i vari Batman Arkham, non quelli prima, gli Arkham. Forse, comunque diciamo, secondo me la serie Batman in assoluto poi è la serie comunque a fumetti più di successo, cioè la serie videoludica di fumetti meglio adattata, ma anche perché lì c'è comunque, io non vorrei dire niente, ma c'è Paul Dini che è mio mito, che è lo sceneggiatore dei primi, perlomeno dei primi due Arkham, anche solo Arkham Asylum ricorda molto, nonostante appunto non sia esattamente uguale, ma ricorda molto proprio la graphic novel Arkham Asylum, non so se l'avete mai letto. Sì, poi lì è stato fatto anche un gran lavoro in Italia, perché sono utilizzati i doppiatori della serie animata che è un capolavoro, la voce del Joker e di Batman tutti, ovviamente, se non sbaglio quasi tutti, e sono comunque a parte dalla serie animata viene anche Paul Dini, lui era lo sceneggiatore di parecchie puntate della serie animata, che secondo me è un capolavoro quella serie animata, la prima stagione, la seconda già comincia un po' a sgravare, ma la seconda la prima stagione di quella serie dedicata a Batman è veramente, poi ne parleremo in un'altra sede, Giuseppe, parte Cristina Ravena, lasciamola stare, mi prego, basta, non mi piace più Batman, pipistrello, no, sai che io saltavo sempre, è rapidissimo, è furbissimo. Poi per esempio, mi avete rovinato un mito, come giochi dedicati diciamo a un franchise già esistente, per esempio gli ultimi della serie di Transformer, non quelli dei film però, quindi tratti che sono dalla Vendetta del Caduto, da Transformer 1, Transformer 2, ma proprio quelli tipo la caduta di Cybertron e la guerra di Cybertron, e comunque si rifanno alla, diciamo, alla continuity del reboot, dell'ultimo reboot dei film, reimmaginati comunque con questa nuova veste, no? Di macchine bioorganiche, comunque riesce bene, non so se li avete giocati. Io purtroppo no, perché non mi sono fidato molto. Non ho mai amato Transformers come tipologia di gioco. Giuseppe, tu avevi citato in Sei Operare Siete anche tutto ciò che è venuto fuori da Lego. Sì, tutti i giochi che poi i giochi da Lego sono proprio l'orgia in assoluto, perché sono un videogioco tratto a volte da un film che magari è tratto pure da un fumetto, no? Tipo che so, Lego Avengers, per darti un'idea, oppure semplicemente tratto da un film, perché tipo che so, Lego Harry Potter, Lego Indiana Jones, Lego Star Wars, comunque sono tutti esempi interessanti, anche perché in realtà visto che c'è di mezzo comunque le costruzioni Lego, no? Possono magari sì comunque prendere delle situazioni già viste nei film, però se le reimmaginano diciamo con la lente che distorce, no? Che rende più giocosa, più humor, più Lego. Esatto, della Lego, no, perché a volte comunque certe situazioni le vedi con certi siparietti che diciamo fanno lo spoof, la presa in giro delle di certe situazioni che vedevi al cinema, nei film, no? Il Batman del film dei Lego è micidiale. Sì, fantastico. Tanto pensate se un gioco dei Lego, quindi un'orgia videoludica, fosse fatto da Sega, cioè sarebbe assurdo. Ah, potrebbe. Proprio il massimo, vabbè, non pensiamo. Ma invece, se io vi dico The Lion King e Aladdin per Mega Drive, mi fai piangere. Quelle erano, sì, veramente. E tra parentesi, anche Aladdin The Lion King, sempre per il discorso dei mitici anni 80-90, erano giochi che in che cosa li potevi tradurre? In platform, se vi ricordate. Sì. Scusate, Turtles in Time. Sì, che figo. Sì, vabbè, però c'è da dire che, aspetta, c'è da dire però dei Turtle, gli unici veramente belli erano quelli che erano presi dai coin-op delle sale giochi, no? Che erano come arcade, no? Esatto, che erano dei picchiatura a scorrimento. Non, perché se vi ricordate, c'erano pure dei giochi che, diciamo, prendevano la licenza dei Turtles, tipo che so, quello per il Nintendo, se ve lo ricordate. E poi gli ultimi fatti da Nickelodeon. Esatto. Esatto, quelli dell'ultimo reboot della serie animata da cui prendono ispirazione. Shell Shock, mi ricordate? Mm-hmm. Giuseppe, posso farti una domanda seria? Prego. Allora, lui, quindi, diciamo che nella maggior parte dei casi, cioè quando sono dei tie-in che cercano di essere fedeli al film o dei film che cercano di essere fedeli al gioco, nella maggior parte dei casi sono delle cacate, possiamo dirlo? Sì, sì, sì. Ok. Nella stragrande maggioranza. Specie nel secondo caso, cioè film che cerca di essere fedele. Che scimmiottano i figli giochi. Final Fantasy Evil, The Spirits Within. Secondo, ma tu, che sei una persona studiata, sì, no? Ovviamente sappiamo che ci devono guadagnare su queste cose, ma ci si guadagna? Nì, dipende da quanto è di richiamo per certi versi il brand, se magari esce in una finestra in cui c'è grande cassa di risonanza, perché magari è uscito un film comunque che ha fatto comunque il botto al botteghino, no? E allora vuoi là per forza il gioco comunque lo segue più o meno, se non è proprio un gioco di merda, no? A volte anche se gioco di merda lo so. Poi dipende anche a volte il gioco con che premesse parte, perché se gran parte dei soldi che il publisher va a spendere sono solo per acquistare la licenza, e quindi poi prendi i primi muratori che passano sotto per fare per scrivere il codice del gioco, comporre la musica e tutto, allora direi che effettivamente con tutta la buona volontà può essere, secondo me, fantastico il film, ma il gioco non venderà, no? Tu hai visto qualche numero da qualche parte come vendite? C'era no, per la verità no, lo posso fare in diretta. Oddio, non era Metacritic, era qual è quello per Fuji Chart. Esatto. Beh, se si parla del contrario, cioè i film tratti dai videogiochi, rifacciamo il solito esempio: Super Mario, il primo, era costato più o meno sui, mi sembra, una cinquantina di milioni di dollari, e ai tempi ne ha incassati 21. Cioè, se ci metti le maledizioni, ci arrivi. Vai a pareggio. Tutte le Madonne. Sì, sì. E comunque se un film santo, bene, proprio. I film, quelli che veramente fanno proprio schifo tratti dai videogiochi, sono sempre quelli a basso budget, bene, esatto, male. Cioè, e qui ricitiamo Uwe Boll. Perché si può dire di tutto sulla saga, magari Resident Evil, che non sia fedele e tutto quanto, però alla fine vende. Vabbè, ma c'è Mila Jovovich. 50% del film per l'altro, comunque Mila la gente lo va a vedere al cinema. E anche film come Hitman o Max Payne, per quanto non siano dei filmoni, sono film di serie B, però tali rimangono. Hitman, tant'è che si vede che un minimo deve avere anche guadagnato, perché se adesso hanno pensato di farne il reboot. Certo. Quindi diciamo che allora forse fare film potrebbe, botta di culo, riuscire a pagare. Esatto. Ma fare il contrario, no. forse no, meno. Beh, ma io penso comunque che l'investimento di una produzione che decide di fare un gioco su un film che magari sta ancora realizzando, come spesso accade, che magari abbiamo visto, magari e devono uscire insieme, che escono insieme, sì, tipo, che ne so, X-Men, queste cose qua. Questi comunque sono investimenti a perdere che fanno, giusto, sì, per fare pubblicità, aumentare, esatto, il marketing, esatto, capito? Giusto per, non credo, infatti, che ci lo mettono, conti, lo mettono come pubblicità, pubblicità. Lo mettono, infatti, come pubblicità. Spesso e volentieri i giochi praticamente sono una versione delle prime bozze di sceneggiatura dei film, sì, anche, spesso, sì, e volentieri sono molto diversi. lo stesso Spider-Man 3 che dicevi, scusami Carlo, lo stesso Spider-Man 3 che diceva Marco prima, che dicevi, che diceva che seguiva la storia del film fino a un certo punto, ovviamente. Fino a un certo punto, perché se ti ricordi bene, a un certo punto Venom rapisce il figlio, che è un maschio, dell'uomo sabbia. Lo nasconde tra i fogni, mi sembra. È una roba del genere, ora non mi ricordo. Comunque quella era la prima versione della sceneggiatura che poi è stata cambiata nel però film vedi finale. Sono cose, impara tante cose dalla merda, quindi tutto sommato vabbè. Io posso farvi una domanda? Sì. Chi è che di voi, io poi vi rispondo, chi è che di voi si è mai spoilerato un film con un gioco? No. No, aspetta. Credo di aver, ma di recente, vabbè, sai che spoiler, credo di aver comprato Amazing Spider-Man prima del film, e oltretutto praticamente il gioco è ambientato subito dopo il film, non, cioè ha una storia completamente diversa, ma perché in realtà è un sequel del film, tra virgolette, quindi sapevo già come finiva, però niente di che. No, io me lo sono spoilerato quando ero piccolo con Batman, è presente il Batman di Batman? Quello di Tim Burton con Jack Nicholson. Io prima avevo giocato, cioè non ero andato al lancio a vedere il film, però mi avevano regalato in quel periodo, anche perché credo che fosse novembre-dicembre, quindi il periodo di Natale, il videogioco per Amiga. E ovviamente completandolo avevo visto il discorso del, anzi il primo livello era pure la storia, non so, del Joker, come, anzi di Jack Napier, come che diventava il Joker cadendo nella pozza, e ovviamente, ovviamente sta cosa me la sono spoilerata dopo che ho visto il film, già lo sapevo, però mi capitava raramente, poi anche perché non erano, diciamo, le mie prime scelte, diciamo, i videogiochi tratti da Itain, insomma. Comunque, ad avvalorare un po' la tesi dell'investimento a perdere, non so se avete notato che, sicuramente avrete notato che adesso la deriva del tie-in è più incentrato magari su, cioè più destinato, non incentrato alla scena mobile, non so se ci avete fatto caso. Sì, se esatto. Se c'è il film, tac, arriva subito il giochino su iPhone, su Android, no, cose. Perché comunque penso che anche per una questione proprio di, ovviamente, di costi di sviluppo e di velocità pure, insomma, è più facile farle ste cose. Tutta immagine, poi, insomma, il tie-in. Io invece vi racconto cosa, io mi sono spoilerato anche qui dei gran capolavori, per carità, anche perché normalmente cioè i film che vengono tainizzati in videogiochi non è che sono capolavori, insomma, parliamoci chiaro. Mi sono spoilerato Mission Impossible su Nintendo 64, che ovviamente il gioco è completamente, non dico completamente diverso, però ci sono delle cose completamente diverse dal film, però c'è, che non so, la scena dei laser quando si cala, che era difficilissima, e poi c'è la scena finale che tu scopri che Phelps è in realtà il nemico, l'arcinemico, colui che era il protagonista della serie TV, invece diventa l'arcinemico, quindi te lo spoiler lì, e io ho detto, ah, che peccato, quando vedrò il film già saprò come va a finire, e lì infatti tristissimo. E poi mi sono spoilerato The Revenge of Sith dei Guerre Stellari, che no. questo già è un po' più grave. però insomma, tutto sommato, quando sono andato a vedere il film sono rimasto ancora più deluso. Quindi tutto sommato non mi è spoilerato fino a un certo punto, visto che nominando Star Wars, ci tenevo, prima che, insomma, chiudiamo l'osservatorio, di nominare un fantastico gioco che pesca idee e soprattutto situazioni dalla serie, ma che è un capolavoro di film, che è un capolavoro, ossia Kinect Star Wars. No! Non so se l'avete giocato. Io pensavo KOTOR. No! No, KOTOR no. KOTOR è bellissimo. Peccato che secondo la Disney ormai non tutte quelle, tutto sommato, potrebbe anche coesistere. Tanto sono comunque due universi quasi paralleli, a 4.000 anni di distanza. Che vuoi, ma chi ci fa a pensare cosa è successo 4 anni prima? Io ho provato Skywalker, ma chi se ne frega? Forse l'hai provato. No, ho provato Dragon Ball Kinect e mi è bastato. No! Comunque mi è venuto in mente che una volta, cacchio, facevano i tie-in su qualsiasi cosa. Hai citato Mission Impossible, Marco. Mi è venuto in mente che io avevo il gioco di True Lies. Ma esistono ma ce l'hai ancora? Quelli secondo me sono giochi di collezione. Il gioco delle Charlie's Angel pure. Sì. Sì, sì, ma per Super Nintendo, il gioco di True Lies, cioè, ve lo ricordate il film, quello con Schwarzenegger? Sì, sì, sì, no, cioè. Facevano il videogioco. Cioè, sì. Mi aspettavo a sto punto il film sui gemelli. Johnny Schwarzenegger e Danny DeVito. Penso che l'hanno fatto. C'era pure su Mega Drive, True Lies. No, sì. Ma pure il gioco di Total Recall, di Atto di Forza, se ve lo ricordate. Sì, sì, però quello lo capisco ancora, ma sai, fare proprio tie-in su... non lo so. Beh, comunque poi ci sono gli esperimenti un po' misti, no? Che non si capisce bene se è un tie-in o no. Ricorda il fantastico gioco di ho perso l'aereo. Oh, oh madonna. Ah, è vero, sì, su sì. Game Boy stava, allora, mi pare. No, anche su PC e qualche altro. Il computer dei tempi che dovevi piazzare le trappole e poi scappare dai due tizi che ti incontravano a casa, ovviamente un platform di questo, anche questo, oppure Chronicles of Riddick, quello era un quello però quello è già un tie-in ben riuscito, quello sì, si ammazza, era potente, tutte e due devo dire, come perché non gioco. So, cioè non sono, cioè sono espansioni quelle, non sono vere e proprie, sì. Sì, erano spin-off, cioè, esatto, più che tie-in spin-off sarebbe, sì, sì, spin-off però tratti da un brand cinematografico. A questo punto, i giochi sì. Dei Simpsons, scusa, su quelli non li conosco, quelli non li conosco. Oddio, però vorrei farvi una domanda, perché siamo quasi ormai a un'ora di registrazione, sì, quindi sì. Direi di cominciare un po' a fare ovviamente le solite domande a cui non daremo risposta. Visto che tutto sommato abbiamo capito che se noi facciamo un tie-in nell'ambito videoludico, perché a noi non ci interessa il videoludico, se noi facciamo un tie-in di un film o di qualsiasi cosa riportandolo nel videogioco, cercando di adattare la storia del film o del libro, di quello che vogliamo, dentro il videogioco, molto probabilmente uscirà fuori una cacata. Ma se invece facciamo, prendiamo quella quell'horror, prendiamo quella, quel mondo, quelle persone, quei protagonisti, e li mettiamo in una storia completamente nuova, probabilmente potrebbe pure riuscirci una bella cosa. Perché non si procede diretti, spediti su questa strada e si abbandona tutto il resto? Un po' abbiamo risposto col fatto che molte volte è pubblicità, quindi vanno sotto la voce pubblicità le cacate. Però perché non andare direttamente su questa strada, che poi tutto sommato alla fine potrebbe pure essere una pubblicità migliore? Punto interrogativo. Cioè tu stai dicendo perché non si potrebbe evitare di fare la i merda. Videogiochi tratti dai film. E fare qualche cosa, tu trai qualcosa dal film, nel senso che fai un prequel o un sequel, ma che si collega magari al film, ma su cui tu, sceneggiatore e che software house, ti puoi sbizzarrire senza essere vincolato da paletti che ti costringono a fare delle cacate. Perché poi... Ma a volte anche perché non tutti, vuoi anche perché viene dall'alto l'imposizione, non tutti vogliono fare lo sforzo creativo, Marco. Sì. A volte c'è anche, che so, chi è che ha i diritti o i publisher che dicono no, tu comunque devi seguire la storia del gioco. Anche perché comunque ci vogliono più risorse, esatto. Caso, quindi poi magari può essere pure che il game designer o il lead writer della controparte videoludica non si voglia comunque sbattere più di tanto a farlo, no? Sì, comunque sì, poi... vai. No, dico, il ragionamento forse anche un po' in base ai tempi, no? Se è una cosa che deve appunto servire da cassa di risonanza per il film, perché deve uscire, che ne so, lo stesso giorno, il giorno dopo del film, del libro, sì, però considerate che impegno, il libro o anche i film non campano soltanto, soprattutto i film non campano solo di cinema, campano anche di Blu-ray, campano di tutto, comunque quello che è dopo il film. Quindi avere anche un gioco che ti esce però fico, che ti esce fatto bene dopo qualche mese dall'uscita del film, potrebbe essere una cassa di risonanza per mandare avanti qualche altra cosa. Un Mordor, per dire, che non c'entra un cacchio con The Hobbit, però in qualche modo può aver acceso qualche curiosità o viceversa. Sì, però diciamo comunque ricordiamo sempre che tutta la licenza di Tolkien è comunque appunto un brand forte e che comunque va ben oltre i film, per quanto sì, anche lo stesso Mordor è ispirato più alla controparte cinematografica, quella cartacea, però in realtà là c'è comunque una licenza, un lore anche volendo più che dice se fa una cazzata qua ci menano, esatto. Però non è detto, esatto. Non è detto. Ma comunque la storia ci ha insegnato che forse i migliori tie-in che abbiamo giocato sono quelli che sono usciti a volte anche anni dopo il film o comunque il prodotto che sono tie-in veri e propri, cioè nel senso che sì, riprendono sì, e basta, senza riportare fedelmente quello che fedelmente si fa per dire poi, quello che c'è. Okay. Poi scusami, sempre appunto tornando al discorso per Mordor, è più facile nel caso in cui, come appunto nel caso di Mordor, che hai comunque un lore più esteso, diciamo inventarti e metterci di tramezzo a metà diciamo una storia comunque che è slegata a tutte le cose, con personaggi anche nuovi, che è piuttosto che magari qualche film dove comunque le cose il background famoso è tutto lì, se tu in quel caso ti metti a fare delle vicende che non toccano neanche minimamente la trama di quel film, ma chi se ne incula, scusando il francesismo. No, anche perché mi hai fatto venire in mente una sì, differenza enorme tra il trasportare un film in gioco, esatto, e viceversa, perché nel gioco, se lo vuoi far diventare film, devi togliere, viceversa sì, se il film lo vuoi far diventare gioco, devi mettere, devi aggiungere roba. Come? Certo. E quindi è ovvio quale sia in teoria la cosa più facile da fare, secondo me, ma non lo diciamo. Esatto. No, perché, no, diciamo, noi... perché rispondere? Perché dare? Quindi la domanda è: ma sti tie-in ci servono o non ci servono? A ognuno la propria risposta. E qui di nuovo l'ictus. Qua mi viene più da ridere. Non lo so, ma è fatta apposta. No, quello per ridere. No. Sei su Italian Podcast Network. E quindi annunciamo, dopo questo passaggio al nero lento, c'è una piccola luce in fondo al tunnel e una voce lontana, quella di Simone Gusella, che chiama a gran voce il suo amico Cesare Giraldi, ci parlano di un multiplayer nella rubrica omonima e ci parleranno del gioco di Rayman. In realtà due, perché comunque accennano pure all'inizio anche a Little Big Planet, un po' a tutto insomma, cioè, voi ascoltate che c'è tanta roba dentro, e quindi andiamoci ad ascoltare Multigiocatore. Ciao a tutti, stasera per la rubrica multiplayer parleremo di giochi platform in due dimensioni. Nello specifico parleremo di Rayman, anche detto Rayman in italiano, per gli amici, sì. A proposito di amici, qui ho un amico, Cesare, che vorrei presentarvi. Ciao a tutti. Basta, finito. E stavo dicendo, tratteremo di Rayman e Little Big Planet. Perché abbiamo preso questi due giochi? Perché sono due giochi che in cooperativa locale, e dove se no, hanno veramente tutto un altro carattere, sono molto più divertenti rispetto alla versione a giocatore singolo. E nello specifico per Little Big Planet è quasi essenziale essere almeno due giocatori, perché ci saranno dei puzzle ambientali in cui due o anche più giocatori dovranno effettuare delle azioni simultaneamente, come girare delle ruote tutti insieme, oppure stare su una pedana per fare più peso, aiutarsi, tirarsi su per dei muri troppo alti. E è anche uscito Little Big Planet 3, che abbiamo provato anche al Games Week e ci è piaciuto un sacco. Ci sono anche dei personaggi che sono unici, hanno delle peculiarità, c'è quello pesante che può spostare gli oggetti, quello leggero che può volare, quello che può sparare con una pistola di qualche tipo. Sì, che in realtà è il Sackboy base. Il Sackboy sì. Che prendeva la pistolina e poteva sparare, ma in realtà il Sackboy avrà tanti accessori nel progredire. E poi c'era il cagnolino. Cagnolino sì. Che poteva. Che cosa faceva? Manco mi ricordo. Non me lo ricordo purtroppo. Boh. Forse comunque correva più velocemente degli altri. Può essere. Quindi probabilmente raggiungeva determinate piattaforme. E, è molto divertente Little Big Planet 3 appunto perché questi personaggi sono unici e ognuno può fare solo lui un'azione, per cui è indispensabile coordinarsi e avere un ottimo gioco di squadra, un ottimo tempismo e dialogare mentre si gioca. E perché si parla di co-op locale? Di co-op locale, sì, certamente. E invece Rayman, cosa dire? Io e Cesare siamo dei grandissimi fan. Abbiamo giocato tutti e due gli ultimi Rayman, che è resuscitato con Rayman Origins e Legends. E cosa beh, diciamo dire? Che tu hai giocato anche quelli vecchi. Io quelli per PS1 non li ho giocati. Sì, però non si può parlare di una cooperativa locale vera e propria. No, ovviamente no, però dicevo, tu sei un fan un pochino più di vecchia data. Io invece lo conosco solo dall'Origins. Sì. Interessante. Prego, vada avanti. Grazie. Grazie, mi hai fatto bloccare. No, vabbè, stavi dicendo che Rayman che si è ripreso con Origins e Legends. Ah, sì, Legends, sì. Ha detto che è risuscitato, sì. Sì, si è ripreso perché è stato sì. Un reboot praticamente della serie che era quasi morta. Alla fine c'è stato un minimo di ripresa dei platform in 2D durante l'ultima generazione. Non è stata una cosa che ha riguardato molti brand, però comunque tra questi è spiccato Rayman con due giochi che secondo me sono dei piccoli gioielli. Sì. Soprattutto Legends che... Già Origins era un gioco molto, molto meritevole, poi giocato in cooperativa è divertentissimo, cioè vi farà maledire il vostro amico che siederà vicino a voi perché è cooperativo ma allo stesso tempo può anche essere competitivo in un certo senso perché potrete buttarvi giù dalle piattaforme vicendevolmente, cioè è molto divertente e i contenuti che ci sono in Origins sono stati moltiplicati probabilmente per 5 in Legends con grandissima sì, varietà. È enorme rispetto a Origins, è molto più grande. Addirittura comprando Rayman Legends si potranno giocare tutti i livelli di Origins leggermente modificati, leggermente migliorati graficamente, con qualche meccanica di gioco in più. E in più chiaramente tutte le missioni nuove di Legends e non solo, perché hanno anche aggiunto altre modalità, livelli particolari, livelli sì, ci di sono sfida. I livelli musicali, i livelli di sfida, poi in generale puoi rifare le missioni che hai fatto in precedenza a tempo, cioè ci sono tutta una serie di modalità extra oltre al mondo di base che è già più grande di quello di Origins, che però Origins stesso è praticamente compreso in Legends perché tutti i livelli della storia si possono rigiocare. È una quantità di contenuti infinita, noi l'abbiamo completato ma ci è voluto un secolo ed è stato veramente però comunque sempre divertente, veramente sempre divertente. E con la perla dei livelli musicali che anche se non spiccano ovviamente per quanto riguarda la cooperativa perché devono essere molto guidati per essere a tempo con una canzone di sottofondo, sono qualcosa secondo me di incredibile, sono veramente divertenti, anzi vi consiglio di andarveli a cercare su YouTube se non avete giocato il gioco perché sono delle cose che fanno ridere e sono straordinarie nel modo in cui si conciliano con le azioni a schermo. Sì, un tocco artistico veramente di classe. E non abbiamo detto, vabbè, particolare che c'è la modalità football, non so come si chiama. Kung Foot, sì, esatto. In cui ce ne siamo date di santa sì. Ragione. Lo scopo è fare, diciamo, gol in delle porte che sono a destra e a sinistra dello sì, schermo. Sì, è una partita di calcio in due dimensioni con la palla che va a velocità supersonica e calci in faccia anche lì come sempre come a calcio tra l'altro sì come nel calcio vero e come nel calcio vero rigore per la Juve giusto? Sì, okay. Anche lì. Quindi ribadire il concetto, giochi platform in 2D, in cooperativa locale, giochi estremamente divertenti, giochi anche longevi, più Rayman che Little Big Planet, perché Little Big Planet ha tutta la parte di editor che, se uno non vuole approfondire, si perde secondo me più della metà del gioco, perché a livello di durata è quello che allunga moltissimo la fruizione del prodotto. Invece Rayman è qualcosa secondo me di veramente con una longevità spaventosa. Sì, è un gioco purtroppo sottovalutato. Sì, è anche venduto poco, però per fortuna hanno speso relativamente poco per svilupparlo, per la ragione che, essendo un platform 2D e avendo già pronto il motore grafico, che tra l'altro hanno usato per i due Rayman e poi hanno usato anche per altri giochi tipo Child of Light, Valiant Hearts, è sempre quello il motore grafico che si chiama il Framework, l'Ubi Framework mi pare. Non lo so, mi pare sia quello. Che in ogni caso ci sono io che mantengo la Ubisoft, dato che ho preso ben due versioni del gioco di Rayman, sì, Xbox 360 e PC, perché si sa, PC è sempre meglio. E giustamente delle due, comprando le due versioni, non hai comprato quella per Wii U, che è la migliore, perché è quella. Purtroppo non ho Wii U, se no sarebbe stato un acquisto obbligato, perché va detto che con il pad del Wii U, con il touch, è tutto più interattivo. Sì, da una sensazione diversa al giocatore comunque, perché c'è un personaggino volante che si chiama Murphy che permette di spostare determinati oggetti che normalmente non si possono muovere nello scenario, e su Wii U si controlla usando il touch, mentre su console semplicemente premendo un tasto B, che non è proprio, non dà la stessa sensazione. Esatto, tu premi un tasto e lui fa un movimento, invece nella versione Wii U devi proprio mimare il movimento. Dà un qualcosa in più, è un pochino la base dei controlli di movimento, cioè dare una spadata veramente muovendo il braccio è più immersivo di schiacciare un tasto, ovviamente, per quanto sia magari più faticoso o più noioso forse una volta che l'hai fatto tante volte, che magari la centesima volta che usi Murphy, o magari per fare livelli sfida, delle sfide settimanali e giornaliere, che su cui io ho perso i secoli personalmente, credo di averci giocato tipo 2 mesi di fila sono alle sfide, una roba del genere, e lì forse ad usare a ripetizione Murphy ti stufi, direi. Sì, purtroppo quello è vero, e va anche detto che forse a volte è un po' lento, nel senso che mentre il nostro personaggio corre, Murphy a volte, almeno a me è capitato, rimane indietro, per cui schiacciando il tasto di azione di Murphy alza un oggetto che è dietro di noi e quello davanti rimane fermo. Sì, magari non seleziona bene essendo automatico. Vabbè, ma comunque, per concludere, giochi la serie di Little Big Planet e quella di Rayman Legends, quella di Rayman, consigliati direi tranquillamente, giochi che sono molto adatti secondo me anche per le famiglie, per i bambini eccetera. Decisamente sì, adatti per tutti, molto divertenti, e che tra l'altro sono in controtendenza rispetto alla parte all'idea di concentrarsi sul coop online, che sì è bello, ha delle idee interessanti, però non è come avere qualcuno sul divano e insultarlo e prendere ammazzate quando vi butta giù da una piattaforma. Giusto, hai detto tutto. Per questo ci salutiamo e ci sentiamo alla prossima. Ciao, ciao. Ciao a tutti. Cara filosofia dietro ludica. No. Carissima videologia dietro ludica, no, non è così, no. Spettabile dietrologia videoludica. Vabbè, va, è uguale. E rientriamo con la posta. Oggi abbiamo della posta interessantissima. Siamo andati per una volta, no, a grattare nel fondo, siamo sulla terra oltre al fondo. E ci scrive sul sito Oggi, nella puntata Non mi fai paura, Sambu83, che ci fa una domanda: ma non c'è modo di interconnettere meglio questo tipo di news, visto che c'è già chi produce il podcast e ne dà notizie sul proprio sito? non so per dire, ma sono già passate 2 settimane da quando è uscito da quel podcast. Io non ho capito una cippa di quello che è, però a Pizzi ci tenevo. No, allora, aspetta, Giuseppe, sai qualche cosa di più preciso? Aspetta. Allora, vabbè, premettendo che sia io che Simone abbiamo dei passati trascorsi con l'utente Sambo83, perché veniva anche a, diciamo, a fare il precisino anche sull'occhio. Comunque credo che la sua osservazione, il suo commento sia inerente al fatto che anche è sempre polemico, però credo che il buon Bertoni sul sito di oldgamesitalia.net abbia messo la news dell'uscita del podcast qualche giorno, se non 2 settimane, proprio dopo che era effettivamente uscito e che era stato dato da 2 settimane anche notizia sugli altri siti, insomma sul sito ufficiale di Etologia Videoludica, su IPN e su tutti i social. Quindi, diciamo, si lamentava del fatto che non c'era stata una pronta pubblicizzazione. Esatto. Ma quindi avrei dovuto leggerlo con la voce di Cartman questa cosa. Vuoi riprovare? Domanda. Ma non c'è modo di interconnettere meglio questo tipo di news? Visto che chi già produce il podcast non dà notizie sul proprio sito? Non per dire, ma sono già passate 2 settimane da quando è uscito quel podcast. Cazzarola! Cazzarola, figlio di sultana! Carlo, devi prendere a lavorare con te. Avevamo un ascoltatore adesso. Scusate. Uno solo, e quindi possiamo anche chiudere. Non ci ascolta più nessuno. Scusate, vabbè, scusaci, Sambo83. No, comunque. Però ci stava, dai, carino. Però per rispetto anche a Bertoni dobbiamo leggere pure la sua risposta. Allora, questa è la voce di Bertoni, ovviamente. Questa è la colpa mia, nostra. Da oggi in avanti il news sarà contemporanea. E adesso andremo a recuperare il pregresso. Amo aggiustare il tiro, così come facciamo già con gli altri podcast. Che lui più o meno è così. Questo è Papa Francesco. Ma diciamo. No, ma lui è un po' Papa Francesco, diciamocelo. Papa Bertoni, ci sta bene però, senti, Papa Bertoni, è bellissimo. Vabbè, basta, salutiamo il nostro ex ascoltatore, esatto. Ma noi li vogliamo bene, cioè, però sì. Cartman ci stava, sì, Cartman ci sta sempre in questi casi. Quando ci sono le ramanzine, la voce di Cartman è all'uopo proprio. Vabbè, niente, a questo punto io direi di salutare non so chi, perché non ci ascolta più nessuno, ma se nel caso qualcuno ci ascoltasse, noi lo salutiamo e faremo, se volete scriveteci insulti, così li leggeremo sempre con la voce di Cartman, così, tanto per essere... Dovresti fare una puntata tutta con... È vero, sì, mazza, sei dotato. Quanta la voce di Cartman, maledetti! Senti, poi, no, niente, facciamo una cosa, facciamo un bel giro di saluti, non so se volete dare anche i vostri riferimenti, se no va bene, Non è obbligato. Fate hobbies, sì, cioè, altrimenti amici come prima. Amici come prima. E ve lo dico anche con la voce di Cartman. Quindi, vedete voi. Vai. Logan, dai, tuoi, cominciamo dall'ospite, dai, l'ospitor. Anzi, ti ricordi, visitor, c'era l'ospitor, no? Vabbè, sono un alieno, quindi vuoi dire? No, sei un ospitor. Ah, ok. Vabbè, niente, a me trovate su Cerebro, quindi cerebroroom.blogspot.it e su PSM, PlayStation Magazine, che è in vendita nelle migliori edicole italiane e su App Store. E oltretutto ne approfitto per dire che anche PSM ha tirato sul suo podcast, lo trovate su iTunes, andate e deliratevi insieme a noi. Ciao. Ciao. Alla prossima, sipario. No, ma c'è qualcun altro magari. Aspetta, ridire sul sipario. Sì, no, ma mi riferivo a me stesso. Ah, ok, perfetto. Fletti muscoli e sei nel vuoto anche, direi. Carlo? Io, vabbè, come saprete già, carlomix.blogspot.it, passionesounddesign.blogspot.it sono i due blog dove mi trovate, sono su Facebook volendo, insomma, se volete venire a prendermi sono qua, specie dopo stasera probabilmente, insomma, sarà l'ultimo podcast di Ideologia Videoludica. Io vi saluto, grazie per averci ascoltato fino a questo punto. No, comunque, ecco, mo adesso non dico neanche più il Twitter, perché tanto mi accorgo Twitter di non usarlo più, quindi non è già passato di moda questo Twitter, così per cui questi sono i miei riferimenti. Io vi bacio e vi abbraccio. Insomma, ti è morto l'uccello, no? Oddio, no, quello per ancora Madonna. Ecco, questa è la fine di TVL. Io direi che è questa che sancisce la fine di questo podcast che cercava di essere glorioso una volta, ma che in realtà poi ha finito male. Niente, ma non c'è Simone. Niente, si fa proprio a calzarella. Cazzeggio totale, però vabbè. Vabbè, perdonaci Simone. Giuseppe, invece, dai tuoi riferimenti, se vuoi essere trovato, perché sì. Allora, vi ricordo sempre il fantastico podcast sui videogiochi di ruolo, che è L'Occhio del Beholder, che trovate www.occhiodelbeholder.it, e poi insomma mi trovate su tutti i social cercando Giuseppe Saso, Peppe Saso, a seconda della piattaforma di gioco del social, comunque il nick è sempre quello. E poi tutte le varie produzioni di podcast che mi vedono sempre a rompere le scatole assieme agli amici di IPN. E per quanto mi riguarda invece mi trovate su Google Plus insieme a Shatner, Facebook come Chain Dog, poi mi trovate su Twitter come me stesso oppure come Gioconno, perché sapete che c'è sempre un Gioconno. E, basta, cosa? Ah, sui podcast, ovviamente su DVL, ma se ovviamente ascoltate DVL mi avete già trovato, su AV lì ci saranno forse delle novità, ma vediamo. E poi l'archeologia vedrunica sarebbe. E poi niente, la domanda è ovviamente sempre la stessa: ma perché mi dovreste cercare? Lo posso rispondere fumo. Io? No, fumo. E no, si ma perché? Guarda, andate a vedere i disegni di Marco, che bravo. Andateci a vedere, cercatelo per andare. Io ho visto, bravo. Sì, sì. Io vi consiglio, insomma, vi do il consiglio della sera. Tra l'altro faccio un annuncio perché presto tornerà la scimmia. Attenzione che torna la scimmia. La scimmia torna nella piccola storia, Corpizzi, quindi attenzione. Ci vorrà un po', ma... Sarai il nuovo zero calcare, tu, già lo so. Zero e basta, io mi chiamo. Esatto. Il calcare me l'hanno levato proprio. Vabbè. Ok, salutate. A questo punto, sì, nebbia, riflettore che si spegne, fade in black. Ciao. Fumo, sipario. Ciao, fatevi un clistere, figli di sultano. Io vado a casa, fatevi un clistere. Poi Pizzi mi ha scritto multiplayer e direi basta. Magari potrebbe aver detto vabbè Simone scrive una cosa, ma tu comunque sei tenuto ad ascoltare. Sì, ma io l'ho ascoltato, ma non sono tenuto a capirlo, però. Flawless victory. I have PenFed, that's a fact. I have PenFed, that's a fact. My credit card purchases get me cash back. My credit card purchases get me cash back. No one else gets these rewards. Sergeant, that is just plain untrue. What in tarnation? Sir, PenFed's PowerCash Rewards Card isn't just for military members. Anyone can get cash back on all purchases. Ah, Figgins! You've ruined my favorite song. PenFed Credit Union. Visit PenFed.org/PowerCash. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCUA. I have PenFed, that's a fact. I have PenFed, that's a fact. My credit card purchases get me cash back. My credit card purchases get me cash back. No one else gets these rewards. Sergeant, that is just plain untrue. What in tarnation? Sir, PenFed's PowerCash Rewards Card isn't just for military members. Anyone can get cash back on all purchases. Ah, Figgins! You've ruined my favorite song. PenFed Credit Union. Visit PenFed.org/PowerCash. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCUA.